versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, qui Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia, in diretta dagli studi della Radio 24 di Milano, sono le 16:32 primi 9 secondi. E dopo avervi ricordato l'indirizzo versione di Oscar @24.it e il numero di telefono a cui intervenire in diretta subito 800 24 00 24, 349 238 6666 invece per i vostri sms. Vi faccio subito la domanda per mettervi in condizione di intervenire e darci le risposte sul tema di oggi. La domanda è questa: che ne direste? Sareste favorevoli o contrari di fronte a una RAI, la RAI, l'azienda pubblica radiotelevisiva, nella quale il governo stabilisse che non valgono più gli attuali limiti di concentrazione di raccolta pubblicitaria, quegli orari, sapete che la RAI è tenuta ad un indice di spot orari che è inferiore rispetto alle televisioni private, quell'indice è del 4% dell'orario settimanale, il 12% di ogni ora. Si può eccedere con concentrazioni più alte al massimo del 2% in un'ora nel prime time, quindi quando c'è più ascolto e gli spot costano di più, del 2% che però va recuperato o nell'ora precedente o nell'ora successiva. Allora, se da una parte vi dicessero leviamo alla RAI questi indici di spot più bassi della televisione privata, punto numero uno. Punto numero due, vi dicessero leviamo il canone RAI, leviamo il canone RAI, cioè arrendiamoci di fronte al fatto che per milioni di italiani è quell'imposta di possesso sugli apparati di ricezione è un'imposta ingiusta, perché avevano votato nel referendum che non la volevano. Ma detto tutto questo, se vi dicessero quindi più pubblicità, meno canone, e però trasformiamo il canone in trasferimenti a carico del fisco generale, ecco, mi interessa sapere se di fronte a questa riforma voi sareste favorevoli o contrari? Vi piacerebbe? Perché questo è esattamente quello che sta scritto nel disegno di legge depositato dal governo, che potete consultare su www.governo.it, e bravi i colleghi della Stampa di Torino che sono stati i primi ad accorgersene stamattina, e quindi trovate sulla Stampa di Torino a pagina 7 un articolo di Francesco Maesano in cui appunto si spiega quello che il governo non ci aveva detto, cioè pubblicità con limiti che non sono più ristretti rispetto alle TV private, l'addio al canone e la sua trasformazione in trasferimenti alla RAI e a carico della fiscalità generale. Ora, a me interessa la vostra opinione di cittadini contribuenti e naturalmente di appassionati o meno dell'offerta del palinsesto RAI. Tenteremo di capire che cosa voglia dire questa riforma. Io adesso mi limito a darvi solo qualche dato per inquadrare il problema. Io ricordo a tutti che il governo ci ha detto oramai 3 settimane fa, prima che ci fosse il testo, che la sua idea era quella rispetto alle 3 reti, per così dire, generaliste. Sapete che se sommiamo tutte le reti tematiche, i canali tematici della RAI, arriviamo a 14 canali tematici, ma detto tutto questo, la sua idea era quella di 2 reti con pubblicità, 1 rete senza pubblicità, in nome della riqualificazione dell'offerta culturale, perché il Presidente del Consiglio dice che bisogna rilanciare la RAI come prima azienda culturale del paese. Adesso scopriamo che però i limiti di raccolta pubblicitaria, i limiti di concentrazione degli spot, scusatemi, verrebbero levati o per così dire fortemente diluiti. Questo da una parte. Dall'altra ricordo a tutti che il governo ha detto che la sua vera emergenza è quella di impedire che a luglio il nuovo CDA della RAI venga nominato secondo il vecchio criterio della legge Gasparri. E se andiamo a vedere le settimane di calendario parlamentare disponibili di qui ad allora, è molto difficile, per non dire pressoché impossibile, che qualunque disegno di legge di riforma della RAI possa essere approvato per allora, e quindi il sospetto che viene è che sia fumo e che poi alla fine ci sarà un decreto legge che cambia esclusivamente i criteri di nomina del capo azienda e del CDA. Sapete che il governo propone rispetto all'attuale CDA un CDA di 2 membri in meno, 7 membri, di cui 4 nominati praticamente come oggi dai partiti in Parlamento, un capo azienda di cui cambia il criterio di nomina il governo che sceglie un vero e proprio amministratore delegato. La novità sarebbe a quel punto un membro del CDA invece espresso da tutti i dipendenti della RAI. Terza cosa, andiamo a vedere, prima di presentarvi l'ospite e sentire la sua opinione che è più qualificata della mia, andiamo a vedere come stanno in termini di risorse le grandi aziende, i protagonisti del mercato televisivo italiano. Io vi devo ricordare che secondo la legge attuale non c'è solo un limite di concentrazione oraria e settimanale degli spot pubblicitari diverso per la RAI rispetto ai privati, c'è anche una seconda norma che impedisce alla RAI di raccogliere più pubblicità di quanto abbia raccolga invece in canone, e poi c'è una disciplina dei tetti che è ancora più pervasiva, perché nel frattempo dal 2010 in poi ci siamo inventati anche una disciplina della concentrazione pubblicitaria di fronte ai canali satellitari, all'offerta digitale e così via, differenziata per il satellitare terrestre in chiaro e per chi invece fa pay TV. Ma detto tutto questo, come stanno le risorse? La RAI in chiave decennale ha perso un mucchio di attrattività di raccolta pubblicitaria, perché se andiamo a vedere i dati certificati dalla Gcom la scorsa estate, quindi stiamo parlando però dei dati 2013, innanzitutto chi raccoglie più risorse in Italia non è né Rai né Mediaset, ma è Sky, e Sky che con la sua crescita e la diversificazione dell'offerta è diventato il primo player per risorse tra canoni a pagamento e pubblicità da questo punto di vista, rastrellando 2,6 miliardi, pur perdendo quote rispetto al 2012, perché sapete che il mercato della raccolta pubblicitaria da anni era in flessione nel nostro paese con la crisi. La RAI rispetto ai 2,6 miliardi di Sky viene seconda con 2,3 miliardi, e questi 2,3 miliardi però sono fatti da 1,654 milioni per essere precisi, che vengono dal canone, e 632 milioni di pubblicità. Quando vi ho detto che la RAI ha perso molta attrattiva in termini decennali, significa che ha perso quasi un terzo le sue risorse pubblicitarie, arrivava a superare i 900 milioni di raccolta pubblicitaria se torniamo indietro nel tempo. Poi viene a quel punto Mediaset, poco sotto la RAI rispetto ai 2,3 miliardi della RAI. Mediaset ha raccolto nel 2013 2 miliardi, quindi sommati i tre maggiori poli fanno quasi il 90% delle risorse. Questo per avere chiaro di che cosa stiamo parlando. Ultima cosa, la RAI avanza nei confronti del governo una pretesa molto pesante di aumento delle sue risorse. Anche la Corte dei Conti poche settimane fa, in ambito di giudizio, di parificazione, di revisione del bilancio RAI, però stavamo parlando del bilancio RAI 2012, quindi eravamo un po' in ritardo, la Corte dei Conti ha sostenuto la tesi aziendale. La tesi dell'azienda è quella per cui i costi di servizio pubblico dal 2005 a oggi sono stati inferiori alle risorse raccolte e ottenute da canone, per una differenza superiore addirittura ai 2 miliardi. Quindi la RAI comunque batte cassa rispetto al governo, e sapete che il governo sul bilancio del 2014 intervenne per decreto tagliando i 150 milioni di risorse, per cui abbiamo avuto poi la quotazione di Rai Way. Ecco, questi i dati elementari, per così dire, del problema. Adesso andiamo al nostro ospite per iniziare a ragionare con lui. Ha accettato di essere, io per questo ringrazio, collegato telefonicamente con noi il professor Marco Gambaro, che insegna economia dei media alla Università Statale di Milano. Buon pomeriggio e grazie, professor Gambaro. Buon pomeriggio. Allora, innanzitutto le chiedo, dal suo punto di vista, questa proposta del disegno di legge del governo, levare il limite pubblicitario, levare il canone, sostituire il canone con trasferimenti a carico della fiscalità generale, ha un senso o fa della RAI a quel punto a tutti gli effetti una TV commerciale di Stato? Beh, dipende, diciamo, certo, aumentare gli spazi pubblicitari della RAI avvicina la RAI al profilo delle televisioni commerciali, senza dubbio. Nel senso che la RAI è già nel panorama europeo un servizio pubblico un po' particolare, con una parte di pubblicità e una parte di canone, e con trasmissioni che puntano molto alla massimizzazione dell'audience, cosa che negli altri paesi europei accade un po' meno. Effettivamente si tratta di scegliere una strada, e le strade erano due: o si sterzava verso la BBC, tanto per intenderci, che però vuol dire canone più alto, trasmissioni meno commerciali, o si sterzava verso una televisione più commerciale. Questa prime notizie sul disegno di legge del governo sembrerebbero indicare che il governo intende percorrere questa seconda strada. Questa seconda strada però porta con sé poi il problema che alla lunga, se io trasformo la RAI in una televisione sostanzialmente commerciale, si pone il problema di quanto sia legittimo un finanziamento con il canone o con la fiscalità generale. Perché se fosse così, la strada diventa una TV commerciale di Stato, a nomina politica, a guida politica, ma una TV commerciale di Stato, perché se noi gli omologhiamo i criteri di concentrazione pubblicitaria nella trasmissione, come farebbe l'Unione Europea a quel punto a carico della RAI a evitare una pronuncia di aiuti di Stato, se invece che canone diventassero a carico della fiscalità generale? Il tema del finanziamento pubblico alle televisioni è sempre stata molto prudente, perché è sollevare un coperchio che trattare il canone o i trasferimenti pubblici alle televisioni pubbliche come un aiuto di Stato solleva un coperchio che l'Unione Europea non ha mai voluto sollevare. Però è chiaro che quanto più la televisione diventa commerciale, quanto più si entra in una zona grigia. Naturalmente ci sarebbe il tema che una RAI che andasse verso un profilo commerciale avrebbe il problema se, quanto e come fare del servizio pubblico. Ora, la contabilità di servizio pubblico che è stata fatta fino ad ora è molto di alto livello. Occorrerebbe che i cittadini potessero discutere di quali sono le cose che effettivamente compongono il servizio pubblico e di che cosa i loro trasferimenti, che siano fatti col canone o con la fiscalità generale, non cambia molto da questo punto di vista, servono a pagare. Perché col tempo potrebbero anche affermarsi modelli diversi di servizio pubblico. Per esempio, si potrebbero individuare dei meccanismi, dei programmi o delle azioni o delle attività di servizio pubblico, e queste potrebbero essere messe all'asta tra diversi operatori con dei compensi. Voglio dire, nulla vieta di fare una cosa del genere. Però è chiaro che se io trasformassi molto la RAI verso un profilo commerciale, lo stesso principio della proprietà pubblica potrebbe essere un po' messo in discussione. Direi, no? Mentre ha un senso che lo Stato faccia una televisione pubblica, se fa una concorrente molto commerciale, adesso poi non è che da domani cambiando si cambia tutto, si equipara la raccolta. Se andasse in quella direzione, col tempo si porrebbe anche questo problema. Perché tanto varrebbe a quel punto privatizzarla. Adesso è ovvio che io non ho chiamato oggi i concorrenti per sapere come la pensano, perché immagino che i concorrenti di fronte a questo faranno sentire la loro voce di fronte a criteri di concentrazione degli spot uguali a quelli che hanno loro, e loro naturalmente non hanno il canone. Però quello che mi interessa, innanzitutto con una reazione degli ascoltatori e poi da parte sua, che è un osservatore che da anni trovate gli articoli del professor Marco Gambaro sulla RAI e non solo, sulla voce.info in questi anni, quindi potete osservare con quanta precisione il professor Gambaro fa l'analista, non rappresenta un interesse, però fa l'analista in termini comparati con le altre aziende di diffusione pubblica radiotelevisiva europea. Ecco, allora cominciamo col dire che tra i nostri ascoltatori c'è un ventaglio fino a questo momento tra gli sms, molto ampio di opinioni, perché c'è chi è favorevole soprattutto all'idea che sparisca il canone. Altri hanno capito però che naturalmente con la fiscalità generale sì, non c'è il canone da pagare, però siamo sempre noi a pagare, e che probabilmente si pagherebbe di più, visto che questa è l'attesa della RAI. Moltissimi dicono no, a questo punto ha senso che se gli danno la stessa raccolta pubblicitaria però venga meno qualunque sostegno pubblico. A questo punto però cadiamo nelle considerazioni che faceva adesso il professor professor Gambaro, capite che senso ha avere una TV commerciale di Stato uguale alle altre TV commerciali? Tanto vorrebbe dire che è privata e va privatizzata. Allora, io mi fermo qua perché abbiamo 60 secondi di informazione sulle strade. La mia opinione, io sono contrario a questa cosa, ma perché non la capisco soprattutto. La mia sensazione è che bisognerebbe partire dalla ridefinizione di che cos'è un servizio pubblico. Loro definiamo e capiamo a quel punto di che risorse ha bisogno, ma quali sono le sue caratteristiche di specializzazione del palinsesto. Se inseguiamo semplicemente l'audience come una TV commerciale, io ripeto, non la vedo la specificità del servizio pubblico, tranne che ha a quel punto l'informazione politicizzata, visto che le nomine sono di partito e governo. Questa resta la mia opinione, ma riprendiamo col professor Gambaro tra 60 secondi alle vostre telefonate. Strade. La versione di Oscar. Eccoci qui in diretta, tornati a parlare di questa novità che emerge dal disegno di legge del governo sulla riforma della RAI, levare i limiti di minor affollamento pubblicitario alla RAI, equiparandoli a quelli dei privati, però anche levare il canone ma sostituirlo con trasferimenti a carico della fiscalità pubblica. Tra le altre opinioni mandate con i vostri sms, questa di Fabio da Udine, secondo me mi ha colpito, dice: se ci fosse almeno una rete slegata dai partiti di vero servizio pubblico, senza pubblicità, quindi con giornalisti che fanno i giornalisti e con cultura e informazione al centro della mission dell'offerta del palinsesto, potrei anche pensare di comprarmi un apparecchio televisivo, cosa di cui al momento non sento la necessità. Beh, Fabio da Udine ha le idee veramente chiare, a dire la verità. Mario ci accusa come al solito di attaccare le intenzioni del governo. No, stiamo attaccando il testo di riforma del governo, non lo stiamo attaccando, stiamo tentando di capire che cosa vuol dire, di sentire le vostre opinioni, facciamo il nostro mestiere. Naturalmente altri dicono che il professor Gambaro ha le mie stesse opinioni. No, il professor Gambaro non ha le mie stesse opinioni. Il professor Gambaro analizza questa questione da anni. Un po' di vostre telefonate, poi sentiamo qual è il commento invece del professor Gambaro. Sentiamo Alessandro da Monza. Alessandro, prego, come la buonasera, pensi? Buonasera. Buonasera e complimenti per la trasmissione, innanzitutto. Grazie. Io ho seguito con attenzione il dialogo col professore. Concordo col fatto che si avvicinerebbe a una televisione commerciale. Preme sottolineare che negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo decennio, sicuramente il profilo è molto similare già direi. Per certi punti di vista, se consideriamo certe trasmissioni, certi reality, quindi si fanno un po' a gara con altre realtà che sono già... Con la differenza che c'è il canone da pagare, però. Esatto, quindi sicuramente io sarei favorevole, magari abbassando questo canone o diminuendo questo contributo. Quindi dici, ha un senso se però il pilastro di sostegno pubblico, qualunque sia la sua forma, canone fiscalità generale, si ridimensioni. La RAI vuole un po' l'opposto, a dire la verità. Marco da Milano, come la pensa, Marco? Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Allora, io volevo solo una considerazione appunto sul canone, che all'alba del 2015 mi sembra assolutamente obsoleto, cioè questo dà alla RAI una posizione di assoluto monopolio di fatto. Io credo che non si debba pagare per il possesso di un televisore, anzi probabilmente dovrebbe essere il fornitore del servizio che mi regala un televisore perché vuole che veda il suo canale. Marco, il fatto che in Italia sia diventato tassa di possesso, ricordo che in altri paesi europei il canone esiste e come, in altri no, come la Spagna, però la stragrande maggioranza esiste ed è altrove anche più elevato che in Italia, e così in Svizzera e così in UK con la BBC, che però per i servizi sull'interno, non quelli internazionali, ha un vincolo a uno spot. Quindi i modelli sono diversi. In Italia la tassa di possesso è stato un tentativo per aggirare l'evasione, lo sappiamo che è così, e naturalmente ignorando la pronuncia italiana referendaria. Pierluigi da Udine, come la pensa? Buonasera, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Diciamo che fondamentalmente, dopo che ho telefonato, le ho sentite tutte le idee che avevo io. Comunque una cosa in particolare volevo sottolineare. Innanzitutto credo che se un servizio deve essere pubblico, non deve essere partigiano, voglio dire, non deve avere un colore politico. E noi sappiamo benissimo che ogni singola rete della RAI ha un suo preciso schieramento, diciamo, no? E quindi già a questo punto l'idea di pagare per avere un'informazione comunque schierata è come quando vado in edicola e mi compro il Corriere della Sera piuttosto che Repubblica, piuttosto che un'altra testata, e so esattamente come la pensano, come e quindi dice c'è troppa politica. A questo, esatto, punto, a questo punto io prendo al balzo quello che dice Pierluigi. Professor Gambaro, nei modelli dei grandi paesi europei ci sono risposte al problema di come si tiene un servizio pubblico, c'è anche altrove, ma limitando l'influenza diretta e anche il potere di scelta dei capi azienda, dei manager, degli amministratori delle aziende di servizio pubblico. C'è un modello come quello del trust della BBC da una parte, in cui i titoli per farne parte, per essere nominati dalla politica, escludono qualunque proiezione politica, ed è veramente così. C'è il modello tedesco, dove la grande parte dell'azienda pubblica in mano dei Länder ha a propria volta una fondazione da filtro, che è un po' come quella di grandi giornali privati come la Frankfurter Allgemeine, che servono anche in qualche caso a evitare che la politica e i partiti nominino e abbiano influenza sulle carriere dentro. E in Italia però queste non sembrano i punti di riferimento di una ridefinizione del servizio pubblico. Secondo lei perché? Ma devo dire, queste fondazioni e questi sistemi che ci sono negli altri paesi rispondono a un pezzettino del problema, perché alla fin fine le nomine della televisione pubblica non sono sempre un po' concordate fra i capi dei governi e i capi dell'opposizione. Il vero problema è cosa succede nella routine di tutti i giorni. Cioè, il problema è una cultura organizzativa e professionale che fa sì che in un posto si ascoltino e si sollecitino gli interventi dei politici, che siano commissioni di vigilanza, capo del governo, eccetera, eccetera, sulla RAI, o invece sulla RAI o sull'azienda pubblica. Invece negli altri paesi questa cosa è un po' più lenta, anche negli altri paesi ci sono influenze della politica, ma non così persistenti e diffuse. Il problema che abbiamo nella RAI è che abbiamo una parte non irrilevante dei 2000 giornalisti e dei 500-600 dirigenti che hanno fatto carriera anche per ragioni politiche, non solo, naturalmente c'è anche tante persone che sono cresciute per merito, però certo ce n'è una percentuale non irrilevante, ed è come cambiare questa cultura. Quindi limitare la politica nella RAI è un lavoro lungo, persistente, che richiede mandati lunghi, non si fa in 2 anni, e richiede questo lavoro day by day. Le nomine sono relativamente poco importanti per cambiare. È chiaro che se nelle nomine si nomina qualcuno che conosce un po' il settore, che non è forse troppo partigiano, è meglio, questo senza dubbio. Un'ultima nota sul canone. Il canone c'è in tutti gli altri paesi. Negli altri paesi il canone è, qua salvo la Spagna, è molto più alto che in Italia, quindi noi finora abbiamo goduto di un vantaggio avendo una televisione pubblica con un canone basso, ma con la pubblicità. Certo che tenere assieme le due anime commerciali e di servizio pubblico è molto difficile. Il canone è una tassa brutta, perché è una tassa regressiva, cioè avendo lo stesso importo per tutti pesa di più paga sui di poveri più che a me. Ricchi. C'è dubbio. Quindi la fiscalità generale è un vantaggio, perché però, almeno è progressiva, però resta, però con la fiscalità generale la capacità del governo di influenzare direttamente è più forte, è senza più forte dubbio, quindi c'è un trade-off, bisogna scegliere quale è meno peggio. Vedremo quale sarà l'evoluzione comunque di questo dibattito. State attenti che però secondo me si va al decreto legge per le nomine, voglio sbagliare ma temo che sia così. Continuate con Radio 24, grazie al professor Gambaro, appuntamento con me domani.